Naturalmente, i giorni successivi a quelli in cui avevo avuto visite, non aspettavo nessuno e l'automobile veniva di nuovo a prenderci, Albertine e me. E quando tornavamo in albergo, Aimé, ai piedi della scalinata, non poteva impedirsi di indagare, con occhi appassionati, curiosi e ghiotti, quale mancia dessi all'autista. Avevo un bel nascondere la moneta o il biglietto nella mano chiusa. Gli sguardi di Aimé mi si infilavano tra le dita. Un attimo dopo voltava la testa, perché era discreto e beneducato e s'accontentava per sé di benefici relativamente modesti. Ma il denaro destinato a un altro suscitava in lui una curiosità incontenibile e gli faceva venire l'acquolina in bocca. Durante quei brevi istanti aveva l'espressione attenta e febbrile di un ragazzo che legge un romanzo di Jules Verne o di un avventore d'un ristorante che, seduto non lontano da voi, vede che vi stanno trinciando un fagiano che lui non vuole o non può concedersi e accantona per un attimo i suoi seri pensieri per posare sul volatile uno sguardo scintillante d'amore e d'invidia. Si susseguivano così, giorno dopo giorno, le passeggiate in automobile. Ma una volta, mentre mi riaccompagnava in ascensore, il lift mi disse: «È venuto quel signore. Mi ha lasciato un messaggio per voi». Proferì queste parole con voce quanto mai fioca e tossendomi e sputandomi in faccia. «Che razza di infreddatura!» aggiunse, come se non fossi in grado di accorgermene da solo. «Il dottore dice che tosse asinina!» E ricominciò a tossire e a spruzzarmi di saliva. «Non stancatevi a parlare», gli consigliai, con un tono di bontà assolutamente simulata. Temevo di prendere la tosse asinina, il che, con la mia tendenza alle soffocazioni, sarebbe stato un vero guaio. Ma il lift si fece un punto d'onore, come un virtuoso che non vuole darsi per malato, di parlare e sputare senza interruzione. «No, non importa», replicò. «Forse a voi», pensai io, «ma a me sì. E comunque andrò presto a Parigi. Tanto meglio, basta che non me l'attacchi prima». «Pare», riprese, «che Parigi sia molto stupenda. Deve essere anche più stupenda di qui o di Monte Carlo, anche se qualche fattorino e anche qualche cliente e persino dei maître d'hôtel che andavano a Monte Carlo per la stagione mi hanno detto spesso che Parigi era meno stupenda di Monte Carlo. Forse si sbagliavano, e dire che se uno è maître d'hôtel non può mica essere un cretino. Per prendere tutte le ordinazioni, riservare i tavoli, ci vuole una testa così. Mi hanno detto che è ancora più tremendo che scrivere delle commedie e dei libri». Eravamo quasi arrivati al mio piano quando il lift mi riportò a pian terreno perché gli sembrava che la manopola funzionasse male e in un batter d'occhio la sistemò. Gli dissi che preferivo risalire a piedi, il che equivaleva a dire e a nascondere che preferivo non prendere la tosse asinina, ma il lift, con un cordiale e contagioso accesso di tosse, mi ricacciò nell'ascensore. «Non c'è più nessun pericolo adesso, ho aggiustato la manopola». Vedendo che non smetteva di parlare e poiché più del parallelo fra le bellezze di Balbec, Parigi e Monte Carlo mi interessava conoscere il nome del visitatore e il messaggio che mi aveva lasciato, gli dissi, come a un tenore che vi sta tediando con Benjamin Godard: «Preferirei qualcosa di Debussy?» «Ma chi era la persona che mi cercava?» «Il signore con cui siete uscito ieri. Vado a cercare il suo biglietto che è dal mio portiere». Siccome il giorno precedente, prima di andare a prendere Albertine, avevo lasciato Robert de Saint-Loup alla stazione di Doncières, credetti che il lift intendesse parlare di Saint-Loup. Invece era l'autista. Designandolo con le parole «il signore con cui siete uscito», coglieva l'occasione per informarmi che un operaio è un signore esattamente come un uomo di mondo. Lezione, peraltro, puramente verbale. Infatti, nella sostanza, non avevo mai fatto distinzioni fra una classe e l'altra, e se provavo, sentendo chiamare signore un autista, lo stesso stupore del conte X, che era tale da 8 giorni appena, e avendogli io detto La contessa mi sembra stanca. Si guardò alle spalle per vedere di chi stessi parlando. Era soltanto per mancanza d'abitudine lessicale. Non avevo mai fatto differenza fra operai, borghesi e aristocratici e avrei preso indifferentemente per amici sia gli uni che gli altri, con una certa preferenza tuttavia per gli operai e poi per gli aristocratici, non per inclinazione, ma perché sapevo che si può esigere da parte loro più cortesia verso gli operai di quanta non si riesca ad ottenere dai borghesi, vuoi perché gli aristocratici non disprezzano gli operai quanto li disprezzano i borghesi, vuoi perché sono inclini a trattare con cortesia chiunque, come le belle donne felici e consapevoli di dispensare sorrisi che vengono accolti con gioia. Non posso affermare, del resto, che la mia tendenza a mettere sullo stesso piano la gente del popolo e i componenti del gran mondo, molto ben tollerata da questi ultimi, riuscisse sempre gradita, invece, a mia madre. Non che umanamente scorgesse alcuna differenza fra le persone, e ogni volta che Françoise era triste o malata, veniva consolata e curata dalla mamma con lo stesso affetto, la stessa devozione riservati alla sua migliore amica. Ma era, mia madre, troppo figlia di mio nonno per non fare socialmente distinzioni di casta. A Combray si poteva anche essere generosi, sensibili, fare proprie le più belle teorie sull'uguaglianza umana, ma quando un cameriere si emancipava, cominciava a usare il voi e arrivava quasi di sorpresa a non rivolgersi più a me con la terza persona, mia madre provava per queste usurpazioni lo stesso disappunto che prorompe nelle memorie di Saint-Simon ogni volta che un nobiluomo, non avendone il diritto, coglie un pretesto per assumere la qualifica di altezza in un atto autentico o per non rendere ai duchi ciò che doveva loro e da cui a poco a poco si esime. C'era uno spirito di Combray così refrattario che occorreranno secoli di bontà, quella di mia madre era infinita, di teorie egualitarie per riuscire a dissolverlo. Non posso dire che in mia madre alcune particelle di tale spirito non fossero rimaste insolubili. Le riusciva tanto difficile dare la mano a un cameriere quanto le veniva spontaneo dargli 10 franchi, che del resto gli facevano molto più piacere. Per lei, lo ammettesse o no, i padroni erano i padroni e i domestici erano quelli che mangiavano in cucina. Quando vedeva un autista mangiare assieme a me nella sala da pranzo, non era per niente contenta e mi diceva: «Mi sembra che potresti avere di meglio come amico di un meccanico», così come avrebbe detto, se si fosse trattato di matrimonio, «potresti trovare di meglio come partito». L'autista, per fortuna quello non m'era mai passato per la testa di invitarlo, era venuto a dirmi che la ditta di autonoleggi da cui era stato inviato a Balbec per la stagione lo richiamava a Parigi sin dall'indomani. Questa spiegazione, anche perché l'autista era una persona incantevole e si esprimeva con tanta semplicità che le sue sembravano sempre parole del Vangelo, ci parve dover essere conforme al vero. Non lo era che a metà. In effetti, a Balbec non c'era più niente da fare. In ogni caso, la ditta, fidandosi solo a metà della parola del giovane evangelista che s'appoggiava sulla sua ruota di consacrazione, lo rivoleva al più presto a Parigi. E in realtà, se il giovane apostolo compiva miracolosamente la moltiplicazione dei chilometri quando li metteva in conto al signor di Charlus, in compenso, quando si trattava di risponderne alla ditta, divideva per 6 quel che aveva incassato. In conclusione, pensando che più nessuno a Balbec facesse passeggiate, ipotesi resa verosimile dalla stagione, oppure temendo di venire derubata, la ditta riteneva in entrambi i casi che la soluzione migliore fosse richiamarlo a Parigi, dove peraltro non c'era molto lavoro. Era desiderio dell'autista evitare, se possibile, la stagione morta. Ho già detto, allora lo ignoravo e saperlo mi avrebbe evitato parecchi dispiaceri, che aveva rapporti molto stretti, senza che mostrassero mai davanti agli altri di conoscersi, con Morel. Dal giorno in cui fu richiamato, e non sapendo ancora che lui aveva un modo per non partire, ci dovemmo accontentare, per le nostre passeggiate, di prendere a Nolo una carrozza o, qualche volta, per distrarre Albertin e perché le piaceva l'equitazione, dei cavalli da sella. Le carrozze erano in cattivo stato. «Che carretta!» diceva Albertin. «Spesso, d'altronde, avrei preferito starci da solo. Pur non volendo darmi una scadenza, ma auguravo la fine di quella vita a cui rimproveravo di farmi rinunciare più ancora che al lavoro, al piacere. Succedeva anche, tuttavia, che le abitudini da cui ero inibito venissero d'un tratto abolite, per lo più quando uno dei miei vecchi io, pieno di desiderio di vivere allegramente, sostituiva per un istante l'io attuale. Avvertii in modo particolare questo desiderio d'evasione un giorno che, lasciata Albertin da sua zia, ero andato a cavallo in visita alla Raspellière, prendendo una strada selvaggia attraverso i boschi di cui i Verdurin m'avevano decantato la bellezza. Aderendo alle forme della scogliera, la strada saliva per un tratto e poi, stretta fra boschetti da alberi folti, sprofondava in gole selvagge. Per un istante le nude rocce da cui ero circondato, il mare che si scorgeva attraverso le loro spaccature, ondeggiarono davanti ai miei occhi come frammenti d'un altro universo. Avevo riconosciuto il paesaggio montano e marino che Elstir ha scelto come scenario per i due bellissimi acquerelli «Poeta che incontra una musa, giovane che incontra un centauro», da me ammirati in casa della duchessa di Germain. Il ricordo che ne serbavo poneva quei luoghi talmente al di fuori del mondo attuale che non mi sarei stupito se, come il giovane dell'età preistorica raffigurato da Elstir, mi fossi imbattuto nel corso di quella passeggiata in un personaggio mitologico. All'improvviso il mio cavallo si impennò. Aveva sentito uno strano rumore. Stentai a padroneggiarlo e a non farmi gettare a terra, poi alzai gli occhi pieni di lacrime verso il punto da cui sembrava provenire il rumore e vidi, una cinquantina di metri sopra di me, nel sole, fra due grandi ali d'acciaio scintillante che lo trascinavano, un essere la cui figura indistinta mi parve simile a quella d'un uomo. Ero commosso come un greco che avesse visto per la prima volta un semidio. Piangevo anche, giacché ero pronto a farlo sin dal momento in cui avevo capito che il rumore veniva da sopra la mia testa. Gli aeroplani a quei tempi erano ancora rari, al pensiero che per la prima volta in vita mia avrei visto un aeroplano. Come quando, leggendo un diario, si sente arrivare una parola commovente, aspettavo solo d'aver visto l'aereo per scoppiare in lacrime. L'aviatore, tuttavia, sembrava esitare circa la direzione. Sentivo spalancate davanti a lui, davanti a me, se l'abitudine non mi avesse tenuto prigioniero, tutte le strade dello spazio, della vita. Si spinse più in là, si librò per qualche istante al di sopra del mare, poi, con brusca decisione, dando l'impressione di cedere a una trazione inversa a quella della gravità, quasi facesse ritorno alla sua patria, con un leggero movimento delle sue ali d'oro, puntò dritto verso il cielo.